cambiato, puoi ripetere che c'è molto QRM. 7/9, modulazione forte. Cava K, va bene, chi è avanti che vuole entrare? Guardate il telefono. Cosa? Ma guardate il telefono. Emmo. Attenzione Napoli, ci ascolti la Sardegna. Attenzione Napoli, ascolti l'isola Sarda. Attenzione l'isola della Sardegna. Luca, senti. Vabbè, già, niente. Sì, sì. Prima ho sentito, ero in cucina, ho sentito uno forte, però adesso è tutta roba di fondo. Sì, Marco, c'è la Napoli e Padova. Però vedi, io sento una cozzaglia di segnali. Questo era bello quel giorno che c'era poco o nulla QRM e arrivavano i segnaloni a bomba, così è bella, ma con tutta una costale di voci, no? Ma quello lo comandiamo noi, la propagazione che è così, purtroppo è così, però proviamo, se entrano, poco fa risposto Padova, non sentivo bene, 9:15 Radio 5. Anzi Napoli sentivo così, Padova di meno, 9:05 mi pare. Mio, scusa, ma sto mangiando già. Praticamente per non stare a cucinare nulla, perché ormai è tardi, mi sono preso la spianata, ci ho messo salsiccia a fette e pecorino grattato e l'uovo arrotolata. Vabbè, anche io a volte, per dire, se non voglio cucinare mi faccio una caprese con pomodoro, però salsiccia, cose così non le sto mangiando. Più che altro mangio in giusto l'arrosto con le cipolle, sono ben pure, ci metto il ketchup. Ce ne andiamo. E Natalino è andato a cenare? Pensa, vabbè, oggi mi è capitato così, Natalino cena e io sto pranzando. Ah, vero? E vabbè, una merenda, non è un pranzo, dai, è una merenda. Eia. Oh, stava tornando uno con le buste, ci abita nel palazzo a fianco, no? Probabilmente aveva parcheggiato chissà dove, era con due buste, due sole buste della spesa, mi ha fulminato con lo sguardo. Probabilmente lui è passato, ha visto che era occupato dalla moto. Io sono arrivato con la mia bella faccia da porco, ci ho messo la macchina e ho cominciato a scaricare comodamente da sotto casa. Lì è sempre un casino a trovare il parcheggio. Dovresti avere un garage per mettere la macchina. Lì è un bel macello. Io non ho mai avuto quei problemi perché c'ho il posto macchina, apro il cancello e entro dentro, capito? E non ne ho problemi. Sì, infatti il cortile interno che avete voi è bello. Però qua, vabbè, troppo, non c'era il posto. E poi il ponteggio che ha rubato parecchi posti, questi non tornano più e quindi bruciano un sacco di posti auto. Se tu conti che un po' più giù hanno prima non c'erano, hanno aperto garage su garage, era tutta zona lasciata chiusa da anni, no? Una volta Scarpa aveva il magazzino ce l'aveva lì, quindi hanno aperto, in poco tempo hanno aperto mi pare uno, due, tre garage, due attaccati, uno all'altro e l'altro, poi uno spazio auto e poi un altro garage, quindi stiamo perdendo qua posti su posti auto, perciò io sono costretto a fare questi trucchetti perché sennò la devono mettere in punta del casino, poi sai, noi la lasciamo ferma per certe volte una settimana, anche due, anche tre alle volte, e quindi Cioè, può succedere un tamponamento, uno che si sbatte, atti vandalici, di tutto può capitare, perciò la voglio sott'occhio. E non ti si scarica la batteria, c'è una tutto questo tempo meno. Registrato. Allora, oddio, vabbè, sto esagerando, diciamo che ogni 10 giorni almeno la giro facciamo, però sì, comunque ne ha risentito, però già essendo sotto casa io non faccio altro che togliere la batteria, la carico col caricabatterie che ho a casa e poi la rimetto in buone condizioni, capito? C'è un break, ma andava avanti, basso basso era. Sì, l'ho sentito anch'io, avanti questo break. Avanti che ha breccato. Vedi, ho sentito il break, però adesso sento un miscuglio di voci. Secondo me era di propagazione, era un segnale talmente basso. Sì, senza ombra di dubbio la propagazione. Questo baracchino c'ha quella caratteristica che tu premi la portante, però entra in trasmissione praticamente non mezzo secondo, ma quasi. C'ha 0,3 secondi di ritardo nella portante, mi scoccia un po', perché se tu appena premi inizi a parlare ti mangia la parola. A volte lo faceva quando c'avevi il bip lo faceva ritardare. No, dipende proprio dall'apparato, bip o non bip c'è ritardo, che ricordi, lo faceva il Palmar, quella porcheria, lo fa questo. Certi apparati sono fatti così, non so per quale motivo. Brecco, sul canale Brecco. Avanti Brecco. Attenzione Nord Italia, Catanzaro. Attenzione collega, se ascolti l'isola della Sardegna che ti super cordializza, avanti. Andiamo a Brecco. Avanti se ascolti la Sardegna. Ma non mi ascolti. Evidentemente non ti ascolta. Mi è sembrato di sentire attenzione Nord Italia, provincia di Catanzaro chiama, cioè lui sta chiamando il Nord Italia. Ciao Natalia. Attenzione Nord Italia, ascolti qua, cambio. Sud Italia, qua siamo al sud, centro-sud. Buonasera ragazzi. Buona attenzione, antenna di gruppa che chiama, Brico. Attenzione collega, se ascolti da città di Sassari, nord Sardegna che chiama. Sta salendo comunque la propagazione. Attenzione bella Napoli! Bella Napoli, ascolti la Sardegna! Sono un po' di modulazione ma non ci ascolta. Ehi, tutte una sull'altro e così sentiranno noi. Vabbè, quando aumenta magari che ci chiamano, li facciamo entrare. Come adesso deve essere, non ci sentono, noi li sentiamo e loro non ci sentono. Ehi, a me non mi sentono di sicuro, e questo già si è attrevato di suo. E poi tutto il resto, già sai, filtro, cavo, giunto. Ma chi l'ha detto, Marco, che quando c'è propagazione non c'entrano i watt, ci arrivi lo stesso? Ma ciabotto, oggi c'è ciabotto, magari con linea retta mi ascolterebbero, ma no, non ne ho voglia già. Mi sto mangiando questa spianatina. E tu Natale, magnato? Attenzione Natalino, ascolti qua, prego! Centro Italia. Già ti ascolto. Attento Sud Italia, se ascolti la Sardegna. Attento Gianni, doppio rombo, cambio. Fra, se sacro un bebè. Gara gara e gara. Ma dici se tu gatti. Gara gara. Bene, ascolti Gianni. Sì, è sacro un po' la radio, ma si sente che si vicino. Ma cosa c'ha? Però mica non è un lineare attaccato. Sto scendo liscio, capito? Con 2 watt. Adesso? Vediamo un genio. Ehi! Ma 2 secondi prima già ce l'avevo. Ehi, 2 secondi prima, beh. Mascalzone, chi vuoi fregare? Che è? E adesso sono sacro, capito? 2, 3, 4, 5. Avanti Marco Condo. C'è Marco Condo, poi c'è Natalino Alfa 1, va. Vabbè, tu c'è da fare la comincia, riprendo dopo, dai. Proseguite, ciao a tutti. Ehi, va bene, fra, vai vai. Tranquillo, pacifico. Marco, ingurgitato te l'hai questo pari. Ho la bocca impegnata. Ciao fra. Spero che sia fatto. Oh, è proprio vero già che quando hai fame basta la cosa più semplice del mondo che te la godi. Cioè, alla fine un pezzo di pane, salsiccia e pecorino grattato, la cosa più buona del mondo. E a chi mano, eh? Io vado matto per il panino, la cosa, la baguette con la mortadella calda, che è buono. Anche la mortadella, mamma mia. Tutta è, a me me la puoi dare, col pistacchio, senza pistacchio, di marca da 13, di marca costosa. Poi ci sono i mariti, certi le sento, le mogli da salmiere. I Mino mi dia quella col pistacchio che mio marito non la mangia. E io, accidenti, mi vorrei dire. Sì, io mi compravo anche le mortadelline, quelle piccole che vengono dallo scopo. Ah, quelle mortadelline con il ferrettino che stringe i latte, tipo caramella. Sì, sì, tutto, tutto. Basta che sia commestibile, io sono di bocca buona. Mi avevo comprato addirittura la macchina per affettare, poi l'ho venduta, non c'è più di nulla. Sai che una macchinetta piccolina affettatrice l'avrei voluta prendere, poi ho detto ma gira gira, prende un bel riposto, la usi una volta ogni morte di pappa e poi da pulire ogni volta, non è che la lasci unta, se no diventa uno schifo. Sì, quella a parte, però nelle macchine vere, diciamo, quelle che usano i supermercati, c'hanno la fila lama, quello lì non è una fila lama, ti si prende il filo e è finito di affettare, invece quello supermercato ogni volta che tu la pulisci poi gli affili la lama, no? La fili la lama, poi la pulisci bene con l'alcol ed è sempre attiva. Però già, bisogna vedere come è strutturata, però se riesci a avere un po' di lama esposta, tu con una fila lama di quelli a bacchetta, glielo puoi inclinare secondo l'inclinazione della, come si chiama, bisello, l'inclinazione del, proprio del tagliente, lo fai girare e la fili in quel modo lì. Dipende poi come è strutturata, te l'ho detto, bisogna vedere da modello a modello. No, ci sono proprio gli affilalama, sono due ruote che praticamente sono attaccate alla fettatrice, tu non fai altro che spingere e loro si avvicinano e affilano la lama. E quelle cose lì sono sempre a rimbreccio, se ti scappa cazzo ti tagli la mano. Magna magna che ce l'hai. No, se no mi strozzo, vado a parlare con la... E mettete un bicchiere di acqua vicino. No, Coca-Cola limone, i te gatto acqua. Ah, la Coca-Cola limone, via. Già rimani pochi di così strane. Ehi già, avevo finto tutto, Coca-Cola limone, Coca-Cola, birra, tonica, non avevo nulla, c'avevo solo l'acqua, oggi avevo voglia troppo di Coca-Cola. Io ho trovato una birra non filtrata che è la fine del mondo, è buonissima, costa una cazzata ed è buona. Beh, io ne avevo provate di birre varie, anche queste non filtrate o artigianali, però la verità a me la birra normale non piace. Per piacermi mi devi dare o la birra rossa che è più dolce, oppure la volgare Radler, la birra limone, quella sembra gazzosa, quella la bevo. La birra deve avere sapore di birra, non di altre cose, per me, io parlo per me. Se bevi birra devi bere birra, non a limone, no, la candela, lascia perdere. Se è birra è birra. Ma è delicato il limone, non è mica limonata, è delicato delicato. A me no, non piace la birra perché è amarognola, anche per i liquori, a me, cioè non sono frittore, però dovendo scegliere verrei liquori dolci, capito? La roba secca, amara, non mi si vada. Beh, quello anche io, a me mi piace la tipo grosse creme di whisky, tutta quella roba lì di Buccino, cosa ti posso dire, crema di melone. Adesso ti faccio un paragone terra a terra. Il whisky mi fa schifo, è secco. Se mi dai il rum, certo è roba comunque forte che io tocco con le labbra e boh, però il rum è in proporzione già un po' più dolcino, non che lo senti zuccherato, ma hai capito cosa intendo? No, no, sono cose troppo forti per me, acqua vita e tutta quella roba lì non è bella, né whisky, no, sono i cuori troppo forti, ma a me non piacciono quelli troppo forti. Mi hanno regalato una bottiglia di Jägermeister, mi pare che ci sia 4 anni di scappa. Cosa ti hanno regalato? Una bottiglia di Jägermeister a Natale, c'è roba di 4 anni di ferma senza mai usare. Jägermeister, anche quello discreto come amaro. Noi cosa bevevamo in pizzeria di solito? C'era una cosa che era prediletta da molti. Ed era, non era Jägermeister, era un nome sì, Montenegro, quello piaceva anche a me. È amaro quello lì di Gini. Io ho una bottiglia di Jägermeister e una di vecchia Romagna etichetta nera con dosatore, fatti in ferro battuto. L'ho messa nella cristalliera come bellezza, ferma lì lo stesso da 4-5 anni. Ehi, sì, ma io ce l'ho quelle cose, per esempio, però non è bevia, cioè le avevo prese, tanto per, che ne so, una volta mettevo su certi tipi di dolci un goccio di rum, glielo mettevo, faceva tipo il babà, veniva, e poi rischiavo di sbronzarmi con le merendine corrette. Diciamo che io vedo rinnovare tutti i liquori, ce li voglio buttare via, quelli ce l'ho troppo tempo, non è bello. Però se compro quelli che avevo, poi me li bevo e diventa alcolizzato, quindi è meglio non pigliare. Telefono un attimo. Oh yeah. Cosa ti fa di male? Ho mandato la foto a Marco di quella che sto prendendo io, la birra, capito? È eccezionale, e poi leggera, nel senso leggera che non gonfia come te le classiche. E anche quella che sto prendendo io, è di quelle non filtrate. Costa una cazzata 79 centesimi la lattina grande, non quella piccola, quella grande. Se vai a prendere in pizzeria ti costa 2,50 euro, 3 euro. Vieni, guardati la foto che te l'ho mandata. C'è anche rossa, sono eccezionali. Attenzione che ha breccato, avanti, l'isola della Sardegna qua. Avanti l'amico che ha breccato, qua è l'isola della Sardegna. Mamma se le moglie, mamma mia. Non so perché non te ne vai 45 a parlare. No, quindi è un casino in chi mi ha comandetta. Che sono sull'altro. Sì, beh, si trovano tutti lì, non sai. Se parlassero uno alla volta, sì. Perché poi si spostano comunque. Si sposta qualcuno, ma quasi tutti fanno una gara a chi arriva più forte, chi ce l'ha più forte l'apparato. Daniele se n'è andato. Marco Condor è andato, se n'è. No, non se n'è andato, si sta mangiando la spianatina, se non va, è a Franguglione, le magneti, non è di traverso se è pazzo. arriva la roba in 10 giorni, adesso ti mando le foto di quello che mi è arrivato. Ho provato a prendere qualcosa perché è tipo AliExpress, però arriva molto molto più in fretta la roba. I prezzi sono uguali, ho ordinato il 22, è arrivato oggi, è arrivato anzi 5 giorni in anticipo addirittura. Ma da dove? Dalla Cina? Aspetti, mando la roba che ho preso. Ma da dove l'hai ordinata? Sicuramente dalla Cina, boh. Ho capito. Avanti Marco Condo, sì sì. Infatti ho ordinato 3 cose, un biadesivo anche oltre a quel rotolo che ti avevo fatto vedere di quel nastro super potente. Ti ho mandato la foto perché ho detto se poi una bufala questo sito, e invece è arrivato. Non solo, a ogni cambio di coso ti mandano il messaggio, l'SMS e l'email di dove si trova in quel momento il pacco, allucinante, cosa che non fa AliExpress. E cos'è un biadesivo quello lì? Questo è quel nastro che pubblicizzavano, che lo attacchi anche se c'è un buco nella piscina o in un tubo, vi attacca, poi ci vuole Sant'Antonio a staccarlo. Oh, è vero! Ho capito. Vabbè. Cosa ti può servire questo nastro? È utile per molte cose. Ho già quel nastro. E poi hanno preso il nastro, quello biadesivo, un altro mi... non ne sacchi più la roba, mi ti ho mandato la foto più grande di quella scatolina con tutti quei pezzi. Veramente guarda, non ci credevo che arrivasse, e poi veramente a ogni cosa ti manda il messaggio di dove si trova il pacco, da quando parte, proprio ogni giorno, quasi ogni giorno il messaggio arrivava. Sì. Capicorda sono, quelli già possono servire. Infatti, sono in rame, belli, ultima qualità, belli pesanti. No, è tutto ottimo, ho provato anche il biadesivo, questo nastro qua, guarda, non hanno stacchi, manca a morte. E il biadesivo molto le pagate. Allora, aspetta che guardo una cosa. Allora, sì. Ci sono anche le fascette, 100 fascette 80 centesimi, anzi no, che li paghi 3-4 euro. E lì sono dalla produttore al consumatore. Sì, aspetta, sto entrando nei miei ordini. Allora, il rotolo è un altro biadesivo, eccolo qua, l'ho pagato, aspetta che mi sta aprendo la pagina, l'ho pagato 0,87, 1,27 il grande e 0,67 quella scatolina di con 60 pezzi. E non è pagato molto, L'hai fatto per provare, e cosa c'è di interessato per queste cose? Guarda, di tutto, cioè come AliExpress, dai dischi di moletta, voltmetri, guaine, vestiti, tutto. Aspetti, mando il sito. Ma roba della 27 e che cosa della 27, in che senso? Apparecchi, CV, eccetera, eccetera. Ma allora se non ci ho guardato su quelli, aspetta che ci guardo, adesso ci guardo. Bello un casino di propagazione del cavolo. Ma è strana, buonasera. Ciao. È uno schifo quando è così. Non va bene, dà solo fastidio e basta. E infatti, perché poi non riesce a fare. Io ho parlato con Napoli e con Padova. Napoli arrivava a 9:15 e andava bene. Vabbè, magari era il momento buono, ma quando si accavallano l'uno sull'altro così è uno schifo. Non senti altro che buriana e basta. È vero, ma poi sale, a volte sale magari quando è ora che non puoi parlare perché è tardi, che ti senti e non puoi entrare perché c'ho disturbi. Purtroppo quando vivi in condominio devi anche adeguarti alle regole condominiali. Lo so, lo tre giorni fa mi sembra che era, c'era Alberto da Sassari in banda laterale, canale 33 mi sembra, 34, una cosa così, in banda laterale, stavo facendo questo con Bassa Italia, ma arrivava che erano una schioppettata veramente, molto ma molto bene, chiaro, pulito. Alberto, quel tipo, non so se l'hai mai sentito, Alfa Lima Bravo. Quello guarda che dovrebbe modulare nella zona di Via Lomberto, da quelle parti lì, non entra molto spesso, io l'ho sentito 4-5 volte, l'ho sentito, e l'altra notte stavo spazzolando e in banda laterale ho sentito che c'era lui. No, non l'ho mai sentito questo Alberto, no, probabilmente gli orari non coincidono e non l'ho mai sentito. Ehi, saranno state le 10 di notte, una cosa del genere, più o meno era quella. Stavo facendo una spazzolata e ho sentito che c'era lui in banda laterale, parlando con la Calabria, Catanzaro, eccetera, eccetera, insomma tutta quella zona lì, Puglia anche. Quando c'è silenzio già è bello, che si sentono solo le stazioni singole e non si sovrappongono, allora va bene, come era l'altro giorno, abbiamo coperto tutta l'Italia, ed era, quasi ci rispettavano, dai, chiedevamo di parlare una alla volta, ci rispettavano e parlavamo una alla volta. Infatti quando si parla uno alla volta è bello, ma quando cominciano ad accavallarsi l'uno con l'altro, no, questi erano in ruota, erano evidentemente in Calabria, lì in quella zona lì, e poi Alberto che ha chiamato l'hanno risposto subito, tranquillamente, e hanno fatto queste opere un po', per cui non c'era problemi, era una telefonata, ma tutti quelli che erano in quella ruota, tutti arrivavano, tutti con segnali forti, belli, chiari, puliti, e Alberto che rispondeva, io non sono entrato perché eravamo di notte, per cui non era il caso, dai, anche perché c'era la televisione qua a quell'ora, per cui non è il caso di andare lì a intromettersi più di tanto. Infatti, se che uno è in casa singola, in campagna, può fare quello che vuole, ma quando è in condominio o c'è vicino al centro abitato, non fa campagna. Vabbè, ma io tanto a quell'ora lì, Giulio, non ascolto. Prima entravo quando c'era un cammino, qualche volta entrava Franco, eccetera, eccetera, entravo di notte sul 10 e stavo bene. Poi non sono più entrati, quindi adesso mi sto guardando il televisore, una certa ora mangio, poi mi guardo il televisore, boh, finito il gioco. Anch'io faccio così, io già, però poi magari quando vado a coricarmi accendo alle volte e allora sento che ci sono 12, Gavino, c'era anche ieri notte Gavino e Franco, alle volte anche Tino, anzi alle volte, molto spesso anche Tino, ma io ripeto non entro perché a quell'ora c'è la televisione accesa qua in questa camera, poi non posso disturbare chi guarda la televisione solo perché io mi metto a parlare a baracchino, assolutamente no. Però loro lo sanno che io ci sono sempre ad ascolto e alla fine il QSO addirittura mandano i saluti e io rispondo tranquillamente a tutti quanti, ma solo per salutare e basta, tutto lì. Ed erano su 12 ieri? Sempre sono sul 12, loro quando entrano a fare questione sono sempre sul 12, va bene, tempo fa hanno lavorato anche gli iscritti, hanno lavorato uno sul 12 e l'altro sul 38 e dunque io già li ho sentiti ugualmente, non c'era problema, capito, ma allora in quel caso lì devi avere la radio giusta, no? Split. Appunto, sì che non. Oppure deve avere due baracchini, uno in trasmissione su una frequenza e uno in ascolto sull'altra, e va bene ugualmente, ma non è quello il discorso. Sì, vabbè, se magari fanno così è perché non vogliono che entri altra gente, magari disturbi. andare bene. Vediamo un po', Marco è finito di mangiare, mangiore. Attento Marco Condor, l'è finita questa spianata? No, già, ma non credo assolutamente, che non è che non vogliono che entro. Però loro fanno per fare esperimenti, capito? Per fare delle prove, e per cui, ma se tu vuoi entrare tranquillamente, sono in gamba, già lo sappiamo, già riconosciamo le persone come si deve, no già? Sì, ma io mi trovavo benissimo anche con Gavino la notte a parlare, tranquillo. Più sentiti, quindi non ci sentono nemmeno più. No, già ci sono, difficilmente mancano la notte, a meno che non, magari non si trovano con il Gavino quando rientra al lavoro molto stanco, può succedere che uno non ne ha voglia, ma generalmente dopo cena ci sono sempre, lui perlomeno nell'ascolto, basta chiamare sul 12, già risponde. Io ripeto, non posso fare questo, perché qua poi c'è la televisione accesa e dunque non posso interferire. E qua c'è un muro che ci divide una camera da letto dall'altra, immagina, è il muro, anche se incamiciato, quello che poi va a sentire di tutto, anche quando uno va a fare la pipì di notte si sente. Lo so, quello lì è il problema delle case in condominio, certo che sì, ma devo dire che può succedere anche qua, perché io ad esempio che non sono in condominio, c'è un muro divisorio fra una casa e l'altra, eppure per dire, se sento che il rubinetto del lavandino di cucciola, lo sento durante la notte, quando c'è silenzio assoluto senti tutto, per cui non è un problema quello, perciò bisogna stare anche a riguardo di queste cose qua, non disturbare insomma, ecco. Così che deve essere, se vuoi che l'amore si mantenga, una cortesia che vada e l'altra che venga, e questo è il proverbio detto da sempre a Sassari. Luca, io riprendi, Calimero. Io non sapevo, Giulio, che eri già in rotta da parecchio, io sono più di un'ora qua, e siccome non sapevo che eri in rotta, scusami. No, mi sono sdraiato stasera e è successo che ho fatto 2 ore almeno di riposo, di sonno, mi sono addormentato, poi stavo guardando la televisione, poi fateci che salgo a vedere se c'è qualcuno, ma ho sentito tutto questo massacro della preparazione che dà fastidio sinceramente, come stavo dicendo a Gianni. Vabbè, comunque sono qua adesso, vabbè, sono già le 8:25, dunque fra un po' dovrò andare anche per fare il solito tran tran della cura e dopodiché cenare, vai. No, perché siccome di solito quando entri saluti tutti quanti, io non hai salutato, visto che non hai salutato pensavo eri già in ruota prima di me, capito? No, ero appena arrivato, come ho acceso ho sentito tutta questa buriana della propagazione, è uno schifo, quando è così è uno schifo veramente, ma comunque anche loro devono parlare, la propagazione è effetto della natura, no? Non ci possiamo fare niente, vai già. Vedo la propagazione, che altro, tutti i disastri che sta facendo la natura, allucinante, ma l'hai vista quella donna su internet che gridando, Samesa Sarda, Samesa, quel ristorante che c'è, cavolo, tutto allagato, tipo la proprietaria gridando, aiutateci, tutto allagato, vicino al Alghero, mi sembra che tra Alghero e Bucco, non so dove sia esattamente questo Samesa. Un po' dappertutto, ha fatto danno a Bonanaro, a Tiesi, e case allagate addirittura, perciò poi anche nel Cagliaritano, no, già ne ha fatto anche qua, i nubifragi di tanto in tanto arrivano e fanno danno, altro che se fanno danno. Poi tu pensa che ancora lì in Emilia ci sono case ancora allagate, ma già si sta ritirando, povera gente lì tutto distrutto, la povera gente, figurati un po', l'Emilia Romagna non è solamente la prima volta che succedono queste cose, anche alcuni anni fa hanno avuto dei problemi, poi non parliamo di terremoti, per carità, cose, calamità assurde veramente, poi dice il destino, ma quale destino? Queste qui sono cose assolutamente inaccettabili, ci mancherebbe. Vai Luca. Sottolineo provocate dall'uomo. Io stavo per entrare a dire il contrario invece, Gianni. Secondo me sì, lo smog, tutto quello che vuoi, ma non credo molto a questa cosa. Diciamo che c'è anche la colpa dell'uomo, nel senso che va a dire i tombini che non li puliscono mai, dunque non scaricano, poi ci devono fare dei lavori come tipo dighe di contenimento, che hanno i soldi lì in Emilia Romagna, quella bruttotta della segretaria del PD, che era lei responsabile insieme a Bonaccini, già da 8 anni che stava amministrando l'Emilia Romagna, avevano 60 milioni a disposizione per fare questi lavori, bacini di contenimento eccetera, non le hanno mai fatte, le hanno dovute addirittura restituire. Ma quando mai? Questa è la politica di sinistra, Gianni? Io politica non ne faccio, però ti posso dire una cosa, Luca, rispondendoti da poco fa. Io ho ascoltato un abitante dell'Emilia Romagna e ha detto che non è vero che sono le piogge che hanno allagato tutto, ma la colpa è dell'uomo, perché con la sera della siccità hanno fatto riempire i bacini sino all'orlo. E poi come ha piovuto ha straripato, loro cercando di rimediare la situazione hanno aperto le paratie e invece di rimediarla non ce l'ha fatta rifluire, l'acqua è andata a finire tutta in città. Quello sono d'accordo con te, dove c'è la mano dell'uomo, ma però le catastrofi naturali, quelle robe lì naturali parlo, cioè l'inquinamento che dicono tutte le fabbriche, tutte le cose qui e là sta cambiando il clima, io a questo non credo. E tu che cosa pensi che sia? Si devono fare le vasche di contenimento, è naturale, ma magari che si dovevano fare dei bacini lunghi 3 km di una grandezza infinitesimale proprio per poter accogliere eventualmente lo straripamento di fiumi eccetera, perché poi naturalmente c'è da dire anche che la natura è stata un pochino crudele in questo periodo, perché non si può piovere acqua di 50 centimetri per ogni metro quadro, ma non è possibile, perché l'acqua che doveva piovere in un anno ha piovuto in un'intera giornata, e quello anche c'è da considerare quello. Però diciamo che l'uomo deve fare prevenzione e la classe politica non fa prevenzione, fa solo prevenzione alle loro poltrone, quello sì, aumentarsi lo stipendio sempre, quello sembra a fare i lavori dovuti per stare bene la gente, la popolazione, quello non lo fanno mai. Cioè, te lo sto dicendo, avevano 60 milioni a disposizione per fare questi lavori, li hanno dovuti restituire perché non li hanno spesi, non sono stati capaci di spenderli, sapendo che si dovevano fare queste strutture. È una vergogna, ma comunque vai già. Ma senza andare tanto lontano, quando ci sono i soldi qua a Sassari, che la regione manda i soldi, non sanno mai come spenderli e dopo li mandano a Cagliari, capito? Loro trovano sempre il modo di spenderli, noi no, mettere verde, fare qualche cosa, aggiustare le strade, niente, è proprio rollina tutti. Noi abbiamo una commissione comunale, per carità, quelli sono proprio negati al 100% perché non fanno niente qui a Sassari. Tu mi dirai, ma la regione dice per Sassari no, non riesce a mandare mai soldi, perché sono loro che quando si stanno in puntare contro la regione e chiedere quello che necessita. Tu guarda Cagliari adesso, tu vai a Cagliari, è una città completamente di cantiere, perché ne stanno facendo poco di lavori dappertutto, e qui non riescono a fare quattro rettupi nelle strade che fanno schifo. No, non è possibile, guarda, no, non assolutamente, non c'è segnaletica, dove c'è illuminazione, le lampadine non accendono, tu guardi i giardini, tutti quanti inculti, non sono stati mai curati come si deve. Tu guarda il giardino, ad esempio, che c'è lì all'agraria, e passaci davanti, ne vedi poco di erbacce, e sono anni e anni che sempre in quelle condizioni, per non parlare altri posti anche, oltretutto, erba che cresce ai bordi del marciapiede, ai bordi delle case, e non la tagliano. Ma insomma, ma quando mai la città deve essere tenuta in questo modo, con tutta la gente che ha bisogno di lavorare, oltretutto? Una vergogna. Vai Luca. Sì, quello, perfettamente ragione, giù. Però a questo fatto dei ghiacciai, di queste cose qua, io non ci credo. Se doveva succedere, vuol dire che doveva succedere, io dico questo. Non è questione di ghiacciai stanno sciogliendo perché l'inquinamento, sta cambiando il clima, e budubum e balabà, perché le stagioni stanno cambiando già da parecchi anni, come la primavera non c'è più, l'estate praticamente non c'è più, a chi non dura più nulla, però non credo che la colpa sia nostra. Io non ci credo. Secondo me è perché il clima sta cambiando naturalmente. Comunque Giulio, ti allacciando a un altro discorso dell'erbace, quando io ero bambino mamma mi portava lì all'istituto dove c'era l'agraria, era una belletta, erano tutti coltivati, c'erano le violette piantate di tutti i colori, me lo ricordo come se fosse adesso, un bel posto, dai, un bel posto per stare con i bambini eccetera, e hanno lasciato andare tutto. Ma prima c'erano i giardinieri, anche a Sacro Cuore prima, io quando ero ragazzo, c'erano i giardinieri fissi che ogni giorno venivano, innaffiavano, potavano, facevano, c'erano tutte le ceppi tutte attorno al giardino di lavanda, aveva un profumo, c'era un profumo in quel giardino che lo tenevano molto bene. Sì, infatti prima era tutta un'altra cosa, ma adesso in tutti questi ultimi anni, per carità, è una vergogna. Poi si aggiunge la maleducazione anche della gente, oltretutto, perché noi vediamo certi cassonetti tutti quanti lì, pieni di mondezza assurda, tipo anche l'altro giorno c'era un arredamento completo, c'era che uno ha scaricato davanti ai cassoni. Centro, prendi, carica e poi c'è il centro a scaricare lì, non abbandonare per strada tutta che si è cambiato a casa, anche da poco lì dalle parti di San Nicola, via Duomo lo stesso, c'erano poco di materassi, sedie vecchie, mobili vecchi, tutti sfacciati per strada, sperando, cosa pensi, che lo spazzino porti via tutte queste cose qua? Tanto è vero, in questi ultimi giorni Sassari ha fatto 400 lezioni per questi furbetti, questi maleducati caponi che vengono anche da fuori dai paesi, portano la mondezza dai paesi per caricarla qui nei cassoni di Sassari. È una vergogna veramente. A quella gente le contravenzioni le devono far pagare, ma ben salate, come si deve. Caspita, io se devo portare via un qualcosa di solido, lo vado sempre al centro lì, all'ecocentro a buttarlo. No, non vado a scaricare le cose dei cassonetti, che è una vergogna. Questa è una questione anche di educazione e di decoro, soprattutto nella città. Cioè ci manca mancanza di rispetto per la città stessa dove noi ci viviamo. Vai Luca. Sì, avanti già. Io all'ecocentro non ci vado. Io chiamo il numero verde, mi danno il numero da applicare, mi dicono la metta dopo le 9 la roba, io la porto giù dopo le 9 come mi dicono, e domani non ci c'è anche quell'opportunità, certo che sì, c'è certo c'è anche quell'opportunità. Io cosa voglio dire? Io vedo qua una piccola borgata dove abito io, che non è sporca come Sassari. Sassari è veramente uno schifo, guarda, una città di una certa capienza di persone che si debbano vedere certi sconci, tutti i cassonetti, tutti quanti impegnati da materassi, da sedie vecchie, da comodini, di più, addirittura camere da letto intere, ho visto, naturalmente tutte fatte a pezzi, buttate lì davanti al cassonetto, ma cosa credi, che lo spazzino la notte quando passa si possa caricare tutte quelle cose? Tu invece fai una telefonata, fai all'ecocentro, ti danno l'orario e il giorno quando lo devi mettere, dopo lo devi mettere, passano e ritirano. Invece no, la gente è maleducata, già, non c'è niente da fare, siamo anche noi, dico io generalizzo, noi nel senso anche noi ci dobbiamo mettere nel calderone perché facciamo parte di questa città, ma è veramente uno schifo vedere certi sconci, Gianni. Io comunque non rappresento quel tipo di gente, io quelli diciamo randaggi, perché c'è la possibilità di farti ritirare la roba con un numero e tu vai a buttarla nei viottoli, a buttarla a fianco al cassonetto, che tanto non ne prendono se non c'è il numero, ancora non hanno compresa. Solo che se ti vedono ti mettono multe esorbitanti, addirittura una signora qua vicino a casa, che poverina sta attenta, la mette tutta bene la mondetta, perché ha usato quelle buste nel supermercato per metterci la mondetta, gli hanno messo la multa a 180 euro, capito? Perché lei si è fermata in macchina, gli hanno preso la targa, c'era la telecamera. Sì, infatti lo so, quello lo so, quello è vero, ma è giusto anche perché qui da noi, in tutta la borgata qui, zone limitrofe alla borgata, c'è la differenziata, qui giorno per giorno devi mettere quello tipo di mondezza, perché poi la notte è fatto la partita e la porta via, non puoi tu mettere altre cose così, ma non vogliamo scherzare, qui non si scherza, non si scherza assolutamente, perché se tu metti una cosa che non è di giornata, ad esempio se capita che devi mettere l'umido e tu magari mi metti che so io la plastica o il vetro, tanto per fare un esempio, giuro, ciao, ciao. Ti mette subito il bacchettino di avviso e alla prossima volta si anche di multa. È giusto che sia così. Invece a Sassari buttano di tutto e di più. Non va bene, non va assolutamente bene. Vai Luca. E Luca chiuso. Ha chiuso, non l'avevo sentito. Sì, ma è per dire, no, è così già, non va bene. Questa è cafonaggine, proprio nel vero senso della parola, perché non si possono accettare. Poi naturalmente, siccome siamo sassaresi, la colpa è di tutti. Colpa di questi randaggi, come hai detto tu, perché in effetti sono proprio dei randaggi, nel vero senso della parola, che non sanno vivere, non sanno stare all'interno di una società come si deve. Ecco qual è il problema. E appunto, perché sarebbe molto semplice e più ordinato fare come faccio io, come faccio tanta gente. Solo che c'è gente che non è in appuntiuta, però non sanno che hanno piazzato le telecamere. Io le ho viste le telecamere piazzate, me ne sono accorto quando sono cioccolato il cane, ho alzato la testa ed era attaccata a un lampione ed è puntata sui cassonetti, capito? Deve essere piazzato di notte per non vedere. Sì, anche questa forse c'è stato un break. Avanti il break. Avanti il break. No, non prende più. Sì, ma è così. Tu pensa che qui c'è anche la raccolta per le cose ingombranti. Il giovedì nella piazza che c'è lì dietro la chiesa in fondo, non mi ricordo che via si chiama, quella via Rambini, non mi ricordo, vabbè, lì c'è la macchina, c'erano le macchine che il giovedì tu vai e li porti le cose ingombranti, allora se le portano via, non c'è bisogno, ma qui non ne lascia nessuno per strada di cose così, qui mettono giornalmente, mettono la mondezza di giornata, come per dire l'umido, la carta, la plastica, il vetro, eccetera, eccetera. Abbiamo un calendario, sappiamo che tale giorno passa per dire l'umido e tu devi mettere la busta per l'umido, l'altro giorno magari poi passa che so io il vetro e devi mettere il vetro, è così. così via. L'unica cosa che mi dà fastidio è che magari sia per i barattoli, la tira, eccetera, che per il resto quelli passano alle 5 del mattino, fanno un fracasso del diavolo. Ma quando mai lo sai che queste cose danno fastidio? Perché non passi più tardi a ritirarle? Ecco, quella è una cosa che secondo me il comune dovrebbe rivedere. Invece no, alle 5 del mattino passano quelli che scaricano le bottiglie sotto casa, fanno un fracasso del diavolo, e questo non è corretto da parte dell'amministrazione comunale, secondo me. Dove viene la sotto casa di Rosita? Ma già ho capito dove è la piazza, dove fanno il bucaro di Sant'Antonio. Esatto, lì, la piazza grande che c'è lì in fondo, sì, dove fanno le feste, eccetera. Che poi tra l'altro fra un po' dovrebbe esserci la festa anche qua. Credo che vengano in azienda, credo. Perlomeno voci che ho sentito e altre ancora. Dovrebbero fare anche una bella festa quest'anno, poi vedremo un po'. Vabbè, io non ci vado mai, nemmeno mi c'è, tanto io mi affaccio alla finestra e sento la musica da lontano, perché la mettono talmente alta, ma sono solo quei 2-3 giorni di festa e basta, no? Va bene così, non c'è problema. No, io qualche volta già sono venuto anche a mangiare la favata, qualche volta, perché lì ci abita un amico proprio lì di fronte, con le villette che ci sono, non ci abita un mio amico, vado spesso a casa sua, e quindi quando ci sono le feste mi chiama, mi dice io ce lo guardiamo da casa, noi ci mettiamo sul terrazzo, ci vediamo tutto lo spettacolo, poi a volte scendiamo pure, capito? Dipende dalla voglia. Ok, sì, beh certo, sì. La voglia, dai, è arrivata l'ora della terapia, dunque ci devo lasciare, che alle 8 devo fare la terapia, sono le 8:05, per cui te lascio, dai, ti saluto e ci sentiamo magari domani. Ciao Gianni, grazie della chiacchierata e buonanotte, dai, a risentirci, vado giù, che devo fare la cura giornaliera per tutta la vita. Vabbè, ciao Gianni, di nuovo, alle prossime, ciao Luca, se mi stai ascoltando. Ciao Giulio, ciao, buona serata, dai, buona continuazione, e grazie per il questione. Avanti Marco, se ci sei. Francivilli Valerio, parato avanti. Francivilli Valerio. Marivale ci dà fuori. Attenzione alla frequenza, attenzione alla frequenza, di sopra Sardegna fa chiamata e ci si tonite l'ascolto, pericolo. Già, ti sta mangiando tutta la modulazione, sì, troppi watt. Esci da DJ Marco. Come per le pugna a biocco, ero al telefono, poi ho chiuso la telefonata, proprio... Ma sai quel sonno naturale? Sì, dicono che sembra un pioppo. Naturalmente mi viene adesso, poi mi passano. Ma potevo mettere la moto dentro, stanotte devo buttare roba, ui. Mica finita la giornata, ancora venivo. Anche io ce l'ho buttata la moto. Di tutto mi, plastica, cartone, carta cartone, umido. E poi generico, più la sabbia dei gatti che è sempre generico. E io quando li cambio tutti, anche se c'è l'epoca della lampo, perché in questo periodo poi c'è caldo e fa. Bene, ho ripreso, sento che hai chiamato, però un po' ti mangia la radio in effetti. Poi magari arrivi bene il segnale, però ti sentono basso in radio. In propagazione non ho sentito uno o due così. C'era un segnale buono, ma la modulazione è proprio mangiata. Bisogna trovare una via di mezzo. Cosa volevo dire? Vabbè, sono entrato per salutarti già, visto che hai ripreso. E qua hai passato lo squelch, perché l'ho messo lo squelch, se no è tutto una grattugia. E ci sentiamo, dai. Ehi, Marco, grazie per essere gentile. Intanto me ne sto andando anch'io, che devo portare giù il cane. Stavo provando, ma ci sono troppe sovrappopolazioni, un casino. Va bene così. Ehi, ciao, buona serata, ciao. Ciao, buona serata a te.